Vai Flavie, mannala. Questo è quello che vi consiglio. Metti la cintura che è il volume 6. Non aver paura se il volume spingi pure play. Che sono sicuro che alla fine piace pure a lei. Anche se stessi zitto vincerei. Sto in alto, subirei. Faccio un mixtape che è un interray. Scaccia il blocchetto se ci vuoi vedere sul palco. Non ci ho fatto niente per tanto, quindi hai capito che ho detto. Scaccia il blocchetto che dopo ci saliamo in tanti. Come il Wu-Tang con i guanti, proprio come Lupin. La mia crew bang, la tua crew che? Sembri Hugh Grant, so che non vuoi crederci, perché ne ho fatto un altro. Dici questo quanto cazzo scrive controtempo senza i numeri da giocare, ho fatto 13. Il flow è magnifico, cambio il nome in The Medici. Capo dei capi metrici, scrivo barre che sembrano calcoli aritmetici. Le senti e pensi che sbaggano da non crederci. Sanno che faccio bene, sì, meglio di una figa che sfida su un taco 16. Piante a casa, barre a caso, che ti fanno uscire il sangue dal naso. Disco dopo disco, non sono mai cambiato. No, no, non sono mai cambiato. No, no, non sono mai cambiato. Tappo ancora meglio degli altri, ma non ho mai perso il rispetto per gli altri. Solo con chi ha perso il mio rispetto negli anni. Adesso vivo un sogno e non voglio svegliarmi. Nel vaporizzatore ho 3 grammi. Accanto c'ho una donna vera, mica le Barbie. Lo faccio per provocare emozioni negli altri. Spiegare a voi figli di puttana che è tardi. Tardi. Non so più neanch'io quanti flow prendo. Tu ne prendi uno ed è orrendo. Sparami perché dal podio non scendo. Il tuo odio non mi sta colpendo. Prendo quello che mi serve e volo via. Tutto quanto in completa autonomia. Fin quando la vetta sarà solo mia. Sarà solo mia. Un giorno